Questa è Absolute Beginners. Benvenuto Sasà. Ciao Babe, grazie. E benvenuti a gentili ascoltatori e ascoltatrici di questo podcast dedicato a band sconosciute del passato che non hanno avuto la possibilità di emergere. O la fortuna. E oppure sono emerse e poi si sono rinavissate. Rinavissate, poi magari tornati, poi magari no. Però oggi parliamo degli Effigies, no? Oggi parliamo degli Effigies, una band di Chicago, una band punk hardcore, direi, in un posto come Chicago, enorme, una città, una metropoli nel 1980, questo è il periodo di cui stiamo parlando. Gli Effigies nascono nell'81, si conoscono in quel periodo, e diciamo nell'80 Chicago non aveva punk hardcore. L'hardcore era un fenomeno oceanico delle due coste degli Stati Uniti. Esatto, infatti sia sponda Washington sia New York e lato opposto Los Angeles e la California, l'hardcore era nato e si era sviluppato già da un paio di anni. Sì, praticamente dalla fine degli anni 70, dal 79, poi nell'80 esplode con una miriade di band in California, immediatamente dopo a Washington, poi a New York, a Boston, ma a Chicago non arriva. Abbiamo parlato un po' di Chicago. Chicago era una città di 3 milioni e mezzo di abitanti e nel 80 appunto era ancora la seconda città americana, però a parte il punk hardcore anche negli anni 70 non è che avesse prodotto dei mostri sacri del rock and roll. Chicago era famosa, e lo è tuttora, per il blues e anche per il jazz, ma non per il rock. No, però dicevi che a Chicago l'hardcore stentava ad arrivare, però io direi che nell'81 arriva proprio con questa bomba. Abbiamo ascoltato le prime due tracce di Haunted Town, il primo EP degli Effigies, uscito per Ruthless Record, della quale poi magari accenneremo qualcos'altro. E il primo pezzo in particolare è Below the Drop, questo ritornello, insomma, un classicone dell'hardcore proprio a tutti gli effetti. Sì, un punk rock, un punk hardcore, tutto loro, perché poi gli Effigies volevano distinguersi dall'hardcore che avevano visto arrivare dalla East Coast, da Washington. I primi concerti dei gruppi di Washington sono stati appunto all'inizio del 1981, e ovviamente, come un po' in tutti gli Stati Uniti, stimolarono molti giovani a prendere in mano una chitarra e una batteria, mentre si dietro una batteria e a suonare, qualcosa che era estremamente facile da cominciare. Well, the people will stand and the rust doesn't leave. State ascoltando Absolute Beginners, puntata dedicata agli Effigies e anche a Chicago, diciamolo. Abbiamo detto che a Chicago l'hardcore arriva tardi e non solo, arriva in piccoli locali, ma come in gran parte degli Stati Uniti probabilmente erano i locali, piccoli locali, gay bar oppure locali dedicati a discoteche, dedicate al punk e alla new wave, che potevano ospitare un po' perché il punk poi divenne, era molto legato ad hardcore, viceversa, il punk inglese influenza tantissimo l'hardcore americano, e da lì i primi gruppi da East Coast arrivano a Chicago e poi in questi gruppi, in questi locali, due in particolare, piccoli, si chiamano La Mère de Père e un altro si chiamava O'Banion, se non sbaglio, e tutti, entrambi ovviamente situati in zone malfamate della città, lì per la prima volta gruppi come gli Effigies potevano cominciare a suonare ed erano dei ragazzi. Sì, insieme a altri pochi gruppi come Big Black di Steve Albini, Strike Under e i Naked Reagan formano questo primo nucleo di musica hardcore a Chicago. Gli Effigies che arrivavano da Evanston, questo quartiere sobborgo a nord di questa metropoli, e capitanati da John Cassidy, e figura di centro di questo progetto, di questo gruppo, e hai parlato di musica inglese, musica punk. In questo album io sento molto le chitarre di album punk della fine degli anni 70, come ad esempio Spinal Scratch dei Buzzcocks, insomma. Ma anche John Cassidy stesso lo dice, erano influenzati dai Sham 69 come stile, anche nello stile del vestire. John Cassidy era rasato zero con le bretelle, come gli skinheads inglesi. Certo, infatti gli Effigies per stile e per sembianze cercavano comunque di differire da quello che era il movimento straight edge o la corrente hardcore della East Coast. Eccoci qua, siamo tornati e con gli ascolti siamo passati dal primo al secondo EP, quindi da Huntertown a We Are The Machine del 1983. Era difficile anche produrre ovviamente a Chicago, non c'era una vera e propria scena do it yourself, che poi a dire la verità era nata a Washington e a Los Angeles l'anno prima e si è diffusa immediatamente in tutti gli Stati Uniti, però Mark Cassidy assieme a Steve Albini e agli altri ragazzi dei Naked Reagan cercarono di mettersi assieme e fare questa Ruthless Record di cui tu hai accennato all'apertura della trasmissione. La Ruthless Record era una specie di cooperativa, o quantomeno era organizzata come tale. Non durò molto, però fu un esperimento riuscito, quantomeno riuscirono ad autopubblicarsi, mentre nell'esperienza del primo EP il produttore del primo EP, che poi gli diede il master, decise semplicemente di smettere di fare il produttore e loro fecero fatica a recuperare il master e tutte le copie prestampate. Ma certo che sia durata più o meno questa cooperativa della Ruthless capitanata da John Cassidy e Steve Albini, se non altro ha creato una scena che prima non c'era, quindi sicuramente è stata funzionale e ha raggiunto l'obiettivo. Sì, sì, entrambi, sia Albini che Cassidy, erano come dire due agitatori, comunque due persone che si davano da fare, si sbattevano per creare qualcosa dal nulla e soprattutto, magari l'avete anche riconosciuto, l'hardcore di Chicago non è proprio l'hardcore tipico che si può sentire nelle coste, e per non parlare di Big Black che facevano tutt'altro magari, però comunque già anche gli Effigies, che avevano un suono comunque punk rock, erano influenzati da band inglesi e da un certo punto di vista sapevano anche suonare, avevano bei testi e belle melodie anche. Esatto, quindi anche tecnica e avere qualcosa da dire è qualcosa quasi di nuovo per l'hardcore. Mistake again and again, and everything goes to waste. Beh, magari gli Fugees non erano proprio di stile ortodossamente hardcore, però tutto il resto ce l'avevano, un approccio do it yourself, comunque un certo odio verso, come dire, gli Yuppie che cominciavano a manifestarsi anche a Chicago, quindi i cambiamenti della città che stava cominciando a diventare da città operaia una città in parte abbandonata, in parte una città per chi lavorava nei servizi e quindi guadagnava tanto, mentre loro da Evanston erano un'espressione della working class, si può dire così. Sì, quindi probabilmente comune a tutto ciò che è punk o hardcore, quindi una rabbia di Sì. fondo, un sentimento di impossibilità di evadere da questa realtà. Forse suonare hardcore era un modo di fuggire o di darsi una prospettiva o comunque di fare qualcosa, o meno solo fuggire, perché appunto, come dicevamo prima, fare un'etichetta, autoprodursi, non era poco e poi per l'epoca era nuovo, non era affatto scontato. Adesso lo diamo per scontato, do it yourself, fai da te, è una parola. Non hobbisti, autoprodursi un disco non era affatto scontato, organizzarsi concerti e magari scambiarsi dischi e date di concerti con gruppi distanti, perché le distanze in America sono tante, e riuscire ad andare a suonare a Los Angeles o a Boston, per esempio. Corporate man. Poi gli Fugees ebbero da subito qualche problema, forse per l'immagine, anzi no, sicuramente, per l'immagine di John Cass e di compagnia, che erano criticati per avere questa immagine da skinheads, tutta fatta da anfibi e bretelle e teste rasate ovviamente, cosa che effettivamente dopo un po' cominciò ad attirare un sacco di altri ragazzi senza arte né parte, teste rasate, che magari all'inizio non erano esattamente neonazisti, come poi sarebbe diventata tutta la scena Nazi Skin anche negli Stati Uniti, ma davano comunque problemi perché scatenavano risse piuttosto violente fin da subito. Poi ci fu una vera e propria scissione del movimento, si può così chiamare, skinheads, anche negli Stati Uniti, tra skinhead di destra e skinhead di sinistra. Stessa cosa era avvenuta in Inghilterra pochi anni prima. Sì, tra l'altro forse gli Fugees vennero etichettati come skinhead di destra, forse per il solo motivo che i loro testi erano un pochino più impegnati e usavano forse più paroloni, sembravano un pochino più intellettualoidi forse, ma insomma, magari chi non capiva li etichettava di destra. Un Erano un po' più grandi degli altri, po' più anche grandi degli John Cassidy altri. aveva 21 anni, non aveva 17, 18, 19 anni, pochi da un certo punto di vista, ma abbastanza per avere una qualche consapevolezza in più sulla città. Alcuni testi che abbiamo sentito parlano della città di Chicago, di una città vuota e di una città corrotta. We are the machine, la machine è la macchina di corruttela della città di Chicago, che è sempre stata una città piuttosto corrotta. E certo, forse anche il suo interesse poi contro appunto ingiustizie o cose è rappresentato anche dal fatto che quando poi la band si sciolse, John Cassidy continuò a studiare legge. E divenne un Divertente avvocato. com'è, insomma. Sì, cambiò prospettiva. You are. Siamo alle battute finali di questa puntata. Abbiamo finito di ascoltare il secondo EP We Are The Machine 1983 e anche le prime tracce del primo LP degli Effigies, perché comunque ci provarono, diciamo, a fare qualche soldino con la loro musica. Gli Effigies firmando per l'etichetta Enigma della East Coast, che produceva tra gli altri Divo, Husker Du, Minutemen e Pere Ubu, e rilasciarono tre LP tra l'84 e l'86 prima di sciogliersi. Sì, anche perché l'esperienza da Ruthless Records finì abbastanza miseramente, la distribuzione era quella che era. Sì, ci provarono, come, ma vendettero sempre poche decine di migliaia di copie. E ci provarono per davvero, per 5-6 anni speravano di riuscire a diventare una band di livello nazionale, e cambiarono anche il sound, avete sentito, erano diventati più funky, più orecchiabili. Anche più orecchiabili, pur mantenendo assolutamente il loro stile, cosa non da poco, e diciamo una certa loro integrità. Ma non è bastato. No, non è bastato, ed è anche per questo che ne abbiamo parlato noi stasera. Esatto. Ad Absolute Beginners. Non sarebbero finiti su Absolute Beginners e non saremmo qua a parlarne, perché ad Absolute Beginners appunto parliamo di esordienti che non ce l'hanno fatta in qualche modo, ma hanno valore dal nostro esordienti punto di vista. Esordienti di nessuna carriera. Ma di molto valore, perché il presupposto di base è che il successo commerciale non corrisponda a un valore, diciamo, merito artistico. Certo. E con questa possiamo anche salutarci. Buonanotte a tutti, buon ascolto per le prossime puntate e a risentirci.